deux types de questions. Une revient sur le problème de l'État et l'autre est une question sur le problème du système des valeurs, c'est-à-dire sur la dimension. Alors, une des choses qui m'avait frappé dans un de vos articles publiés dans l'Esprit, c'est que vous disiez que la forme usine du capitalisme reprend centralement des éléments d'organisation de type militaire et administratif de l'État. Traduire. De l'État capitaliste, c'est-à-dire concrètement de l'État absolutiste de type monarchie. Alors j'aimerais savoir si à partir de là, vous pouvez dire quelques mots sur l'existence d'une signification centrale du problème du pouvoir étatique qui transcende le temps historique du capitalisme. Et si vous pouvez établir des relations, des interactions entre cette signification centrale du pouvoir étatique et la signification centrale du capitalisme tel que vous l'avez défini hier soir, tel que vous l'avez défini à d'autres moments dans vos écrits. Et j'aimerais aussi que vous éclairiez cette question par rapport à l'analyse que vous avez faite de l'évolution du pouvoir soviétique dans votre livre devant la Chine. C'est-à-dire, est-ce que le type de pouvoir soviétique que vous présentez, que vous analysez dans Devant la guerre, a dépassé aujourd'hui la signification centrale du type capitaliste? Voilà pour ce premier aspect de la question. Et le deuxième aspect de la question, pensez à Rubel et à la tentative de Rubel de fonder un discours sur l'éthique dans le champ marxien. Qu'en est-il de l'éthique dans le paradigme théorique de l'imaginaire socialiste de l'espèce? Cioè facevo un po' fatica a sentire, quindi non assicuro. Allora, due sono le questioni, i problemi che pone, ossia quello dello Stato e quello del sistema dei valori. Ecco qua, je pas compris, vous avez parlé de forme usine du capitalisme. Oui, de la forme usine du capitalisme. Della forma fabbrica del capitalismo e dello Stato precapitalista. Cioè lui vuole sapere se a partire da questo punto si può parlare appunto dell'esistenza di un significato immaginario centrale che ha trasformato lo Stato capitalista. Se la relazione appunto tra la significazione centrale del potere dello Stato e quello del capitalismo, se esiste questa relazione, e poi chiarire anche il punto sollevato in uno dei suoi articoli sull'evoluzione del potere sovietico, ossia si chiede se il potere sovietico supera oggi la significazione centrale di tipo capitalistico. E poi anche il tentativo di, je sais pas comprendre, Rubel. Fondare il tipo marxiano, je sais pas comprendre ça. Una etica marxiana. Ah, di fondare un'etica di tipo marxiano. Oui. Sur la première question. Sì, sul primo punto. Je crois que c'est un très bon exemple. Credo che sia un buon esempio de la relation du passé au présent, della relazione tra passato e presente, dans la création historique, nella creazione storica, un point qu'on a mal discuté hier soir, un punto che si è poco discusso ieri sera. Bon, quand on regarde l'organisation de l'usine capitaliste, quando si guarda l'organizzazione della fabbrica capitalista, on peut la définir, la si può definire, par cette rationalisation entre guillemets, da questa razionalizzazione tra virgolette, mais cette rationalisation a bien entendu un caractère très particulier, ma questa naturalmente di tipo particolare, questa razionalizzazione, en fait c'est une rationalisation bureaucratique, è burocratica, c'est-à-dire hiérarchique, cioè gerarchica. Il y a la pyramide des postes, c'è la piramide dei posti, et les provinces de compétences, e le province di competenza, qui diminuent au fur et à mesure qu'on descend dans l'échelle hiérarchique, qui diminuiscono man mano che si scende la scala gerarchica. E il y a en même temps des instructions. E c'è nello stesso tempo delle istruzioni. Des ordres. Ordini. Qui se veulent idéalement tout à fait précis. Che idealmente vogliono essere precisi. Pour ce que chacun a à faire dans sa petite sphère de compétence. Per quello che tutti devono fare, ognuno nella sua piccola sfera di competenza. Alors, quand on décrit les choses comme ça, allora, okay, quindi si descrivono le cose così, on voit immédiatement, si vede subito, que ce type d'organisation, che questo tipo di organizzazione, n'est pas une invention du capitalisme. Non è un'invenzione del capitalismo. C'est-à-dire que le capitalisme l'emprunte, cioè lui la prende in prestito, à quelque chose qui est déjà là, da qualcosa che c'è già. Et qui est là, par exemple, dans l'administration de l'État centralisé. Per esempio, nell'amministrazione dello Stato centralizzato. Et dans l'organisation de l'armée de l'État national. E nell'organizzazione dell'esercito dello Stato nazionale. Parenthèse. Parentesi. Quand est-ce que le taylorisme a commencé? Quando ha cominciato il taylorismo? Ben, réponse, le livre de Taylor. Risposta, il libro di Taylor. Qui parle de la One Best Way. Che parla del modo migliore. C'est 1907. È il 1907. Le que faire de Lénine. Il cosa fare di Lenin. Qui décrit un taylorisme politique. Che descrive un taylorismo politico. È del 1903. È del 1903. Mais. Ma. En 1596. Nel 1586. 96. Il y a un manuel d'instruction militaire. Esiste un manuale di istruzione militare. De Maurice de Nassau. Di Maurice de Nassau. Stadhouder des Provinces Unies dans les Pays-Bas. Nei Paesi Bassi. Qui décrit. J'ai pas compris. Stadhouder, c'est le souverain élu provisoire de la noblesse. Des Pays-Bas, qui était un grand militaire, Maurice de Nassau était un grand militaire, où les gestes pour charger, armer, viser, tirer, reposer, nettoyer l'arquebuse. Per poter caricare, puntare, tirare e poi mettere l'archibugio. Sono divisi in 64 gesti separati. 64. Sono divisi in 64 gesti separati. Eccetera. Bon. Doivent être faits mécaniquement. Devono essere svolti in modo meccanico. Dans l'uniformité totale par toute la compagnie sous la surveillance du sergent. In tutta la compagnia dell'esercito, appunto sotto sorveglianza del sergente. Bon, donc là on a déjà la division taylorienne, n'est-ce pas, des gestes. Donc chaque fois le meilleur geste analysé et décomposé. È già la divisione di Taylor appunto sul miglior gesto per fare una composizione. Et ce manuel de Maurice de Nassau devient très rapidement dans toute l'Europe. E questo manuale appunto si diffonde in tutta Europa. La base de l'entraînement militaire, de l'exercice militaire. E diventerà anche la base appunto per l'esercitazione militare. Et il ne parle pas que des archibuges, enfin c'est tout le. E non parla solo appunto di archibugi. Détail amusant. Dettaglio divertente. En 1610. À une époque où il y a peut-être 1% de la population russe, in cui l'1% della popolazione russa, qui est alphabétisée, è analfabeta, qui est alphabétisée, è alfabetizzata, quindi. Le manuel de Maurice de Nassau est traduit par les tsars en russe. Il manuale viene tradotto dallo zar in russo. Et devient la base de l'entraînement militaire. E diventa la base dell'esercitazione militare. Voilà pour le retard technologique. Et la dualité du secteur civil et du secteur militaire. Ecco appunto il ritardo cronologico, la dualità del settore civile. Parce che, come le dice Signarski, je crois. Come dice Signarski, credo. Dans mon pays, on envoie des fusées sur la Lune. Nel mio paese si inviano dei raggi sulla luna. Mais on continue à récolter les pommes de terre en prenant les pommes de terre avec les mains dans la terre, n'est-ce pas? Si continuano a prendere appunto le patate con le mani. Bon, sortir de... Bon. Sì. Alors, donc, le capitalisme reprend ses éléments dans ce qui est là. Il capitalismo quindi prende questi elementi in quello che è lì, che c'è già. E on peut même aller plus loin, bon, déjà la burocratie impériale romaine. Già la burocrazia imperiale romana. O imperiale chinoise, mandarina. Cinese, di mandarina. Mais la différence c'est quoi? Ma qual è la differenza? C'est que ceux qui, dans cette organisation hiérarchique, rationalisée, entre guillemets, bureaucratique. È che quello che nell'organizzazione razionalizzata e tra virgolette burocratica était, si on peut dire, statique. Era statico. Et là, vraiment, il faut penser à la bureaucratie étatique traditionnelle. Qui bisogna pensare alla burocrazia statale. Où on fait toujours les choses d'après le précédent. Le, hein? Che si fanno le cose appunto seguendo sempre quello che è stato fatto prima. Etc. Avec le capitalisme. Con il capitalismo. È complètement transformé. Ciò viene trasformato completamente. Parce que ce dont il s'agit, c'est l'expansion continue. Perché quello di cui si tratta è l'espansione continua. Et cette expansion n'est pas simplement externe. Che non è solo esterna. Ou comment dire. Spatiale. O spaziale. Elle est aussi une expansion interne. Ma è anche interna. C'est-à-dire la rationalisation doit pénétrer cette organisation hiérarchique bureaucratique. La razionalizzazione deve penetrare questa organizzazione gerarchica e burocratica. Non pas comme une rationalisation donnée une fois pour toutes. Non come una data una volta per tutte. Mais comme un processus de rationalisation. Ma come un processo, un procedimento di razionalizzazione. C'est-à-dire que cette organisation donnée, cioè questa organizzazione data, est constamment bouleversée parce qu'on essaye de la modifier pour faire lui faire rendre plus et autre chose, etc. N'est-ce pas? Viene continuamente rovesciata per poterle permettere di dare sempre di più per poter procedere. Et la troisième phase de la chose. E la terza fase. C'est que bien entendu à partir d'un moment, a partire da un momento, plus ou moins, più o meno determinato, l'État et l'armée eux-mêmes, lo stesso esercito, entrent sous l'emprise de ces significations du capitalisme, entrano appunto sotto il, c'est-à-dire que la bureaucratie étatique et militaire doit elle-même se transformer constamment pour se moderniser, etc. Cioè la burocrazia statale stessa deve continuamente modificarsi per evolvere. C'est ça. Avec bon, deux conséquences. Con due effetti. Bon, la première, c'est que c'est pour cette raison qu'on ne peut pas parler de bureaucratie en général comme catégorie transhistorique. Per questo che la prima non si può parlare di burocrazia come transstorica. Et c'est une critique qu'on peut faire à Max Weber. È una critica che si può fare a Max Weber. Parce que effectivement, du point de vue formel, la bureaucratie mandarinale chinoise. Poiché effettivamente la burocrazia dei mandarini cinesi. Et la bureaucratie de la General Motors. E la burocrazia della General Motors. Se présente comme tout à fait superposable, en un sens. Si possono essere sovrapponibili. Mais la bureaucratie mandarinale chinoise est là pour reproduire éternellement le même. Ma quella cinese è là per riprodurre la stessa cosa in modo eterno. Tandis que la bureaucratie de la General Motors est là pour changer constamment, même si c'est toujours le même, mais enfin, c'est le même de notre point de vue. Quella invece della General Motors ha come fine quella della costante evoluzione, cambiamento. Et deuxième conséquence très importante. E seconda conseguenza importante, c'est que la bureaucratie traditionnelle, è che la burocrazia tradizionale, chinoise, impériale, romaine, ou même de l'état de l'ancien régime, cinese o romana, imperiale, del vecchio regime, ancien régime francese, ne produit pas cette contradiction interne, cette antinomie, non produce questa contraddizione interna, antinomia, que produit la bureaucratie capitaliste moderne. Come invece lo fa la burocrazia capitalistica moderna. Je veux dire, grosso modo, vado, cioè dirò, grosso modo, c'est un système statique. Si tratta di un sistema statico. Il ha sa razionalità, entre guillemets. Ha la sua propria razionalità, tra virgolette. Cette rationalité, elle est ce qu'elle est. La razionalità è così com'è. On la connaît. La si conosce. Elle est donnée une fois pour toutes. Viene è data una volta per tutte. Il y a des règles et des critères pour décider de tout. Esistono regole e criteri per decidere. Le système, bien sûr, peut dominer la population, l'exploiter, l'opprimer, etc. Mais il n'a pas de contradiction interne. Le système peut dominer, sfruttare la population, mais non ha contraddizioni interne. Bon, dans le monde moderne, nel mondo moderno, c'est cette bureaucratie capitaliste, è proprio questa burocrazia capitalistica, étatique, militaire, etc., statale, militare, eccetera, qui a comme tâche che ha come compito de produire et de gérer quelque chose qui change constamment. Di produrre e gestire qualcosa che cambia continuamente. Et elle se réclame d'une rationalité. E pretende di avere una razionalità. Mais elle ne peut pas se référer à une rationalité donnée. Ma non può fare riferimento a una razionalità data. Et ça se voit dans toute une série de traductions, enfin on pourrait en parler. E ciò si verifica in tantissime traduzioni di cui si potrebbe parlare. Et bien entendu, ça crée aussi ça. Ça donne tout à fait un autre caractère dynamique. Et ciò dà un carattere dinamico. À l'opposition entre l'appareil bureaucratique. All'opposizione tra l'apparato burocratico. Et disons la base. Et la base. Hein? Alors sur la deuxième question, je n'ai pas grand chose à dire, bien qu'elle soit très importante. Je crois que les tentatives de Rubel. Sul secondo punto, sì, il tentativo di Rubel. Moi personnellement, je les considère comme tout à fait idiosyncrasiques. Lo considero idiosincratico. Bon, le problème de l'éthique, c'est un autre problème. Il problema dell'etica è un altro punto. Je pense que, d'une certaine façon, je dirais. Credo che in un certo modo. Pour nous aujourd'hui. Per noi oggi. Il y a presque une coïncidence du problème éthique et du problème politique. C'est quasi una coincidenza del problema etico e politico. Je dirais que pour moi l'impératif dans le domaine politique. Credo che l'imperativo nel campo politico. C'est le travail ou la lutte. Sia la lotta o il lavoro. Pour l'autonomie. Per l'autonomia. Au niveau social. A livello sociale. Et que dans la dimension personnelle ou privée, che nella dimensione privata o personale, je crois aussi que l'impératif ou le principe qui guide, credo che l'imperativo, il principio guida, c'est de traiter les autres comme des êtres autonomes et dans la mesure où on peut contribuer au développement de leur autonomie. Credo che sia quello di trattare gli uomini da autonomi e cercare di fare qualche cosa per creare questa autonomia. Après cela, à chaque fois, les problèmes sont concrets. Enfin, comment on le fait et comment on peut le faire. Dopo di questi problemi diventano concreti, come si può fare, in quale modo. Chiede qual è la sua concezione fondamentale degli uomini, perché dalle sue posizioni gli sembra che ci sia una prospettiva idealista. Vuole sapere se esiste un'altra idealistica. Se ha un'altra appunto concezione dell'uomo. Qu'est-ce que tu entends par une perspective idéaliste? Je comprends pas. Che cosa intende per prospettiva idealistica? Qu'il y a dans la réalité socio-historique une différence fondamentale avec la réalité du monde physique, du monde naturel. Il me semble que tu continues une perspective qui a été posée dans les prochaines années de ce siècle, dans l'école de pensée, de la technique et de la science, que connaissons différence fondamentale entre le monde socio-historique de l'homme et le monde naturel. Je ne pense pas qu'il soit possible de chercher, de reconnaître des régularités tendancielles dans ce monde. Je pense que reconnaître une interprétation du monde socio-historique soit quelque chose de lamentable pour les perspectives de libération de l'homme et tout ça. Il me semble de pouvoir reconnaître une perspective idéaliste, mais pas naturellement une critique. On pourrait bien penser que la perspective idéaliste soit une perspective raisonnable quand même. Allora lui ha chiesto che cosa intende lui per prospettiva idealistica e ha risposto che in realtà, un attimo, sì, nella realtà socio-storica esiste una diversità, secondo appunto quello che diceva lui, con la realtà fisica e naturale, della fisica e della natura. E quindi questo è praticamente una continuazione di quello che era già stato fatto dalla scuola idealistica, che criticava appunto la scienza, la fisica, eccetera. E non crede possibile quindi riconoscere una regolarità di questo mondo e riconoscere anche un'interpretazione del mondo sociale e storico. Quindi questo tipo di riconoscimento è in fondo rientra in questa prospettiva idealistica, che non è detto che si debba criticare, può essere ragionevole o valida ugualmente, insomma. Moi, il m'est difficile de discuter la question sous ces termes. Difficile per me discutere questo problema, questa domanda. Parce que moi, je l'ai dit, pour moi l'opposition n'est pas entre l'idéalisme et le matérialisme. Perché l'ho già detto, per me l'opposizione non è tra idealismo e materialismo. Le matérialisme, c'est de l'idéalisme, c'est évident. Il materialismo è idealismo, è chiaro. Qu'est-ce qu'il dit le matérialisme? Che cosa dice il materialismo? Que tout obéit à des lois. Che tutto obbedisce a delle leggi. Bon, et que tout est matière réglée par les lois. Che tutto è materia regolato da leggi. Bon, alors qu'est-ce que c'est que la matière? Allora cos'è la materia? Ben ça change. Ma cambia. Bon. Et puis finalement dans la physique moderne, qu'est-ce que c'est que la matière? Nella fisica moderna che cos'è la materia? Bon, aucun physicien ne donnerait une réponse à cette question. Nessun fisico sarebbe in grado di dare una risposta a questa domanda. Il dirait que lui il a affaire avec des entités mathématiques. Direbbe che ha a che fare con entità matematiche. Ce qu'on appelle en physique des quanta les vecteurs d'état. Quello che si definisce in fisica i quantum e i vettori di stato. Bon. Et puis c'est tout, hein? È tutto qui. Alors les lois c'est quoi? Les lois c'est pas des objets. Allora le leggi non sono oggetti. Les lois c'est des relations idéales. Ma bensì relazioni ideali. Je crois que l'opposition, encore une fois, comme je l'ai dit, credo che ancora una volta l'opposizione, come ho già detto, c'est entre sia tra des philosophies de la déterminité, filosofie della determinità, et bien sûr de comment dire de l'homogénéité de l'être, naturalmente dell'omogeneità dell'essere. Et une pensée comme celle que j'essaye de développer. Et un pensiero come quello che cerco di sviluppare. Qui reconnaît l'hétérogénéité dans l'être. Che riconosce l'eterogeneità dell'essere. Et qui reconnaît les limitations de la déterminité. E che riconosce appunto i limiti della determinatezza, della determinità. La déterminité. Déterminisation. Alors, sur l'hétérogénéité, je ne peux pas dire plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Non posso aggiungere nient'altro sull'eterogeneità di quello che ho detto. Moi, je ne vois pas quel sens ça a. Non vedo quale senso possa avere. De dire. Dire. Que la différence. Che la differenza. Entre une symphonie. Tra una sinfonia. Et une galaxie. E una galassia. C'est purement apparent. È puramente apparente. È purement phénoménal. O fenomenale. Cette expression à mes yeux n'a pas de sens. Questa espressione non ha senso. Il y a une symphonie ou une sonate ou un tableau c'è ou un poème. Sinfonia, una sonata o un poema. Appartient à un autre mode e niveau d'être. Partire da un altro modo d'essere o livello d'essere. Que une galaxie ou l'eau qui bout dans une casserole. Oppure rispetto a una galassia o l'acqua che bolle nella pentola. Bon. Donc je crois qu'il faut reconnaître cette hétérogénéité. Quindi occorre riconoscere questa eterogeneità. Et je crois aussi qu'il faut reconnaître le fait qu'il y a des limitations énormes. Così come bisogna riconoscere che esistono limiti enormi. À l'idée de la déterminité. All'idea della determinazione. Alors, régularité dans le monde social historique, tu dis? Allora, regolarità nel mondo sociale storico? Mais bien sûr qu'il y a des régularités dans le monde social historique. Sì, questa esiste. Il y en a une infinité de régularités dans le monde social historique. Ci sono tantissime regolarità in questo mondo. S'il n'y en avait pas, nous ne pourrions pas vivre. Non si potrebbe esistere altrimenti. Nous ne pourrions pas parler, nous ne serions pas là. Così come parlare o essere. Si je n'avais pas la certitude à peu près absolue que notre ami, dans l'instant suivant, elle va continuer à traduire. Se non avessi la certezza che la qui presente continuerà a tradurre. Et qu'il est pratiquement exclu qu'elle sorte un revolver et qu'elle me tire dessus. Che è escluso che prenda una pistola e mi uccida. Je ne pourrais pas fonctionner, ça c'est innombrable. Non potrei andare avanti. Il y a la régularité che tout à l'heure on va avoir des panini, enfin, que c'est certain. È certo che tra un po' ci saranno questi panini. Et ce matin, il y avait des endroits où on pouvait acheter des panini, et que mon avion partira ce soir, etc., etc. Ça, c'est pas sûr. Il y a même la régularité. C'è anche la regolarità. De la nebbia a Milano, dont j'ai tenu compte dans mon voyage. Le grève. Hein? Le grève, oui. L'institution. C'est la régularité. Mais bien sûr, bien sûr. La stessa istituzione. Mais alors, précisément, c'est quoi ces régularités dans le monde social historique? Che cos'è questa regolarità nel mondo sociale storico? Encore une fois, si nous sortons des choses triviales. Se noi prendiamo delle cose triviali. C'est-à-dire pour lesquels il n'a pas besoin de théorie. Ah, surtout, oui. Se noi usciamo dalle cose triviali. C'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas besoin de théorie ou de pensée. Per le quali non c'è, no. Per le quali non c'è bisogno di teoria o di pensiero. Bon, je ne sais pas que, grosso modo, dans une population. Io, per esempio, in una popolazione, grosso modo. Il naîtra des garçons et des filles. C'erano ragazzi e ragazze. Bon, ça va osciller autour de 50%. Questo poco sarà della dimensione di 50%. En ordre de grandeur. In ordine di grandezza. Mais qu'on verra pas de population un peu importante. Ma che non ci saranno delle popolazioni importanti. Où ce sera créera un problème social. Et ciò creerà un problema sociale. Parce que régulièrement il naît 99 garçons pour une fille. Perché regolarmente nascono appunto 99 ragazzi per una bambina. Bon, ou l'inverse. O l'inverse. Situation plus favorable pour la partie masculine de l'assistance. Bon. Alors, hein? C'est l'utopie, hein? Bon. Hein? Combinant immédiatement le besoin d'organiser. Voilà. Voilà. rientra subito la necessità di organizzare appunto tutta la società in visione di questa nascita. Alors, si on sort de ce genre de trivialité, qu'est-ce qu'on voit? Que les régularités qu'on observe dans une société. Si vede allora che le regolarità che si osservano nella società. C'est les régularités qui ont été posées par son institution. Sono quelle che sono state imposte dalla propria istituzione. La régularité de la compréhension que vous avez de ce que je dis. La regolarità della comprensione di quello che io dico. C'est-à-dire, il peut y avoir des malentendus ou des points subtils ou des objections ou des malcompréhensions. Ci possono essere malintesi, dei punti sollevati, delle incomprensioni. Je pense que personne ne sortira de cette réunion en disant ce matin nous avons parlé de la reproduction des girafes. Ma credo che nessuno uscirà da questa stanza dicendo che abbiamo parlato della riproduzione delle girafe. Ben, cette régularité, c'est quoi? C'est l'institution sociale du langage. Questa regolarità è l'istituzione sociale della lingua, del linguaggio. Qui assure une approximative. Che assicura un'approssimativa. Univocité et compréhension dans le discours. E di comprensione del discorso. Qui bien sûr n'est jamais absolu. Che non è mai assoluto. Qui dans la pratique sociale. Che nella pratica sociale. Est suffisante pour les besoins, comme disait Aristote. È sufficiente ai bisogni, così come diceva Aristotele. Et qui évidemment, quand on entre dans le domaine de la discussion théorique, devient plus problématique cette univocité. E che diventa più problematica questa univocità una volta che si entra nella discussione teorica. Et alors, qu'est-ce qu'on voit là précisément? Allora, che cosa si vede in questo caso? Qu'il y a des régularités. Che esistono regolarità. Que la société ne peut pas exister sans des régularités. Che la società non può esistere senza di queste. Même notre société utopique et anarchiste ne pourra pas exister sans régularité. Anche la nostra società utopica anarchica non potrà c'est évident. Esistere senza queste. Sans une infinité de régularités. Senza un'infinità di queste regolarità. Mais que ces régularités sont chaque fois créées. Queste regolarità ogni volta vengono create socialmente e historiquement. A livello sociale e storico. C'est-à-dire que là encore, alors je reviens, je termine avec l'hétérogénéité des niveaux. Termino con l'eterogeneità dei livelli. Qu'est-ce que je constate là? Cosa verifico, cosa vedo? Que cet être social historique. Che questi esseri socio-storici crée chaque fois la loi de son existence concrète. Creano ogni volta la legge della propria creazione, del proprio essere concreto. Et je ne peux pas dire ça pour les galaxies. Questo non vale per le galassie. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est de l'idéalisme ou c'est du matérialisme? Je n'en sais rien. Je crois que c'est pas intéressant sous cet angle la discussion. Questo idealismo non lo so, comunque è abbastanza interessante in questa discussione. C'est pas si c'est satisfaisant ou suffit. Io volevo dire una cosa a Perotti, ricordargli che quella distinzione di essi, di strati, per esempio adottata da Conrad Lorenz, che è tutt'altro che un idealista, cioè da un biologo che adotta la distinzione dei quattro, non tre strati, che viene fuori da un po' di esistenza di questa idea, però è un fenomenologico, è adottata da un biologo. La société, même la société anarchiste idéale, a besoin de règles, mais aussi de normes, d'une certaine normativité. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'institutionnalisation. Sans institutionnalisation. Sans non, bien sûr. Le problème, c'est notre niveau. Bien sûr. Per quanto riguarda la società anarchica e utopica, non ha, cioè che ha delle regole, anche delle attività anarchiche. Le norme. Norme. Ah, delle norme, delle attività. E poiché appunto n'a pas vie sociale, vous avez dit? Il n'y a pas de vie. Non c'è una vita sociale all'interno di questa società anarchica. Senza norme. Senza norme. Senza norme. senza istituzioni. Normativité, je compris normativité. Normativité. Si l'aspiration a... Hein? Niente. Niente. Niente. Niente. Si l'aspiration est provisoirement en phase basse, on peut manger et reprendre, non? Oui. La grande bouffée. Elle est sentie. Giusto? Non so se hai capito cosa vuoi dire. Capisco, credo. Ma no, credo che capisco. Adesso, quindi abbiamo una... Kantianamente si potrebbe dire, abbiamo un numero, no? Che è inconoscibile, se non quella conoscenza, che poi non è una conoscenza, quella interpretazione che di volta in volta una società dà di questo numero, no? Questo proprio kantianamente. Se adesso questo schema, questo approccio, lo rapportiamo al nostro carissimo amico Carlo Wojtyła, rispetto a Carlo Wojtyła, il Papa. Ah, Wojtyła, sì. Rispetto a quello che... Il polacco. Il polacco, ultra progressista. Rispetto a quello che diceva lui prima, quando diceva Carlo Wojtyła dice delle cazzate, e tu hai detto, sì, è vero, si può smascherarlo, si può dire, lui dice una cazzata perché rispetto a una certa cosa noi gli possiamo dire, ma no, la nostra esperienza verifica che quello che tu dici è falso. Ma allora ti domando tre cose. Primo, in realtà noi abbiamo tante cose che sono oggettivamente in comune con Carlo Wojtyła. Come? Che sono oggettivamente in comuni con Carlo Wojtyła, per esempio, in comuni. Che comporta, per esempio, se Carlo Wojtyła dice che lui è contro l'omicidio, magari non è vero niente, ma facciamo per dire, noi possiamo concordare su questo punto, giusto? Se lui dice che è contro la pillola, noi non concordiamo. E in realtà però non è che noi possiamo portare la nostra esperienza è un giudizio di valore. Lui potrebbe dire, non so, pregando la Madonna, prima di far l'amore non metti incinta tua moglie. Questa è una cosa che invece si può verificare che è una cazzata, giusto? Morendo il pensiero. E questa è un'opinione che si può smascherare. Ma se lui dice che invece è male la pillola, che la pillola è male, noi non abbiamo un'esperienza per dimostrargli che ha torto. Chiaro? Ora, tutto quello che ho detto adesso, rapportiamolo all'idea della rottura rivoluzionaria. Quando è che avviene una rottura rivoluzionaria? Secondo me una rottura rivoluzionaria avviene quando si crea un immaginario, in questo caso noi sosteniamo che la pillola è bene, perché risponde a dei bisogni, come fai tu, oggettivi. Perché solo rispondendo a dei bisogni oggettivi noi possiamo smascherare la cazzata di Carlo Wojtyła. Se no, quando è che si crea la possibilità rivoluzionaria della rottura dell'immaginario sociale istituita rispetto a quello? È questo che io ancora non capisco, perché te l'ho domandato ieri sera e tu mi hai preso con una cinta femminista praticamente, no? Non si fa coprire. Ma non più. Voglio dire, no, per, cioè, se noi vogliamo come dire, speculare sulla tua scienza, no? Cioè, tu vieni qui, ci dici, ti porti magari della tua scienza, io voglio trarne profitto, io rivoluzionario voglio trarne profitto, allora io ho un progetto rivoluzionario, Tu mi parli di rotture rivoluzionarie e allora vorrei capire qual è il segreto della rottura rivoluzionaria, vorrei capirti il segreto della rottura rivoluzionaria, perché se io ho un progetto di trasformazione sociale, quello che io mi sento chiedevo le leggi sociologiche, no, questo progetto io mi posso servire di questa conoscenza per inventare un nuovo immaginario sociale che sia veramente in grado di rompere l'immaginario sociale di Wojtyła, capisci? Sì. E non quindi la pillola, mi dici che la pillola è male, io dico che la pillola è bene, però in realtà non ho abbastanza forza oggettiva, uso questo termine, perché la mia esperienza sia più forte della sua, perché lui in realtà ha un altro tipo, lui fa riferimento a tutto un altro tipo di esperienza, dove quell'esperienza corrisponde veramente a quello, a quel giudizio di valore che lui dà e con lui e condivide tutta la parte della popolazione italiana. Non so se hai capito, ho fatto una esposizione molto confusionaria, però è proprio perché non ho chiare alcune cose. Hai capito bene o vuoi che spieghi meglio? Je crois que j'ai compris. Bon, alors, il y a plusieurs points dans tout cela. Ci sono più punti in tutto questo. Bon, là encore. Anche in questo caso. Bon, il ne faut pas de toute bonne foi. Non bisogna in buona fede. Dogmatiser les choses et ce qui aboutit à les caricaturer. Hein? Non bisogna dogmatizzare le cose neanche appunto arrivare al punto di caricaturalizzare. Bon. Quand je dis que les interprétations, quando dico che le interpretazioni du monde grec, del mondo greco données successivement, date poi par la Renaissance, la Rinascimento, le 17e, le 18e, etc. 17e, 18e secolo, eccetera. Nous apprennent plus sur la Renaissance, le 17e et tout le reste. Ci hanno insegnato di più sul Rinascimento, sulle stessi secoli. Que sur le monde grec. Che non sul mondo greco. C'est presque ce qu'on appelle en français une boutade, n'est-ce pas? È una battuta. C'est une formule provocante. Una formula provocante. Pour souligner l'élément de projection. Per sottolineare l'elemento di proiezione. Alors, on a le même problème en psychanalyse. Esiste lo stesso problema in psicanalisi. Quand quelqu'un dit quelque chose, quando qualcuno dice qualcosa, c'est son système d'interprétation qui parle. È il suo sistema di interpretazione che si rivela. Et disons, pour aller vite, ce qu'il dit contient des projections. Quello che dice contiene delle proiezioni. Mais pour que je dise que ce qu'il dit contient des projections, ma perché io possa dire che quello che lui dice contiene delle proiezioni, je dois avoir une certaine vue, devo avere un certo punto di vista, de ce à quoi il se réfère, di quello a cui egli si riferisce, pour pouvoir dire que c'est une projection, per poter dire che questa è una proiezione. Si moi je suis, j'ai la, bon, je suis paranoïaque. Se sono paranoico. Hein? Et je pense que Luciano va me tuer. E penso che Luciano mi ucciderà. Bon, c'est une projection. È una proiezione. Mais pour que tu dises que c'est une projection. Ma perché tu possa dire che questa. Il faut que tu aies la relative certitude que Luciano n'a absolument pas l'intention de me tuer. Devi d'accord? Avere la certezza che non mi ucciderà. Alors quand je dis que l'interprétation par exemple du 17e siècle sur la Grèce. Quando dico che l'interpretazione del XVII secolo sulla Grecia contiene de très forts éléments projectifs, ha dei forti elementi di proiezione. Bien sûr, ça veut dire que d'une certaine façon, vuol dire che in un certo modo, je comprends suffisamment, capisco abbastanza, aussi bien le monde grec, tanto il mondo greco, que le monde du XVIIe, quanto quello del XVII secolo, pour pouvoir faire la séparation, per poter separare. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord. Alors comment est-ce que je peux avoir cette connaissance du monde grec et du monde du 17e? Come posso avere quindi la conoscenza del mondo greco del 17e? Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a parlé ce matin. Je n'ai rien de plus à dire. Je crois que parlato. Je répondais au copain. Ho risposto a lui. C'est ce que j'ai dit ce matin. Quello che ho già detto. Maintenant, ce que je dirais du monde grec et du monde du 17e. Quello che dirò del mondo greco del 17 secolo. Bien entendu, c'est toujours ce que nous disons aujourd'hui, moi, ici, maintenant, ou nous. Quello che diciamo oggi noi nel nostro secolo di questi. C'est-à-dire que ça vient de notre point de vue. Cioè deriva dal nostro punto di vista. Et peut-être dans ce point de vue, il y a quelque chose sur lequel nous sommes aveugles. E in questo punto di vista c'è forse qualcosa di cui noi siamo non coscienti, ciechi. Et que peut-être nous découvrirons demain ou que nous découvrirons pas. E che scopriremo forse un domani o non lo faremo, non lo scopriremo. D'accord. Bon. Alors, maintenant sur le passage à la limite que tu fais. Sul passaggio al limite che fai. En disant que la réalité du monde grec n'existe pas finalement. Dicendo che la realtà del mondo greco non esiste in ultima analisi. Je pense que comment dire, c'est excessif et ça devient faux. È eccessivo e quindi va a essere sbagliato. Il y a une réalité du monde grec pour les Grecs eux-mêmes. C'è una realtà del mondo greco per gli stessi greci. Comme il y a une réalité de notre monde, même si nous ne sommes pas des théoriciens. Come c'è una realtà del nostro mondo anche se non siamo teorici. Pour nous. Per noi. C'est-à-dire, les Grecs pensent quelque chose d'eux-mêmes. Cioè i greci pensano e de leur monde. Qualcosa di loro stessi e del mondo loro. Pensent explicitement. Pensano in modo esplicito. Ce qu'ils pensent explicitement. E ciò che lo pensano esplicitamente. Est une partie de la réalité objective de ce monde. È una parte della realtà obiettiva di questo mondo. Et bien entendu. E naturalmente. Ça n'épuise pas la réalité de ce monde. Non esaurisce la realtà di questo mondo. Parce qu'il y a des choses tout à fait importantes et vraies sur la Grèce ancienne. Che esistono delle cose vere e importanti sulla Grecia antica. Que les Grecs ne pensaient pas. Che i greci non pensavano e ne pouvaient pas penser. E non potevano pensare. Bon. Alors, c'est ça finalement le savoir et la pensée dans l'histoire. Hein? Questo è il sapere e il pensiero nella storia. Maintenant, quand on en vient à la discussion avec Wojtyla. Quando si arriva al punto della discussione con Wojtyla. Je crois qu'il y a d'abord il y a deux domaines qu'il faut séparer. Hein? Occorre separare due campi, due settori. Relativement séparés. Fenomeno che sono relativamente divisi, separati. Bon, je parlais des postulats du discours de Wojtyla ou du discours chrétien. Parlavo dei postulati del discorso di Wojtyla o del discorso cristiano in generale. Et je disais qu'on peut les dégager. E dicevo che si possono trarre. Et dire aux gens. E dire alla gente. Bon, d'abord voilà les postulats de ce discours. Ecco i postulati di questo discorso. Postulat que nous trouvons inacceptable. Postulati che riteniamo inaccettabili. Par exemple, l'idée d'une révélation divine. Per esempio, l'idea di una rivelazione divina. Et qui par ailleurs aboutissent à des conclusions. E che giungono del resto a delle conclusioni. Qui ne s'accordent pas avec le reste de notre expérience. Che non sono in accordo con il resto della nostra esperienza. Bon, peu importe, enfin, tous les peuples qui ont vécu sur toute la terre avant le Christ, etc. A sua volta, non cioè, dovrebbe essere un'esperienza, e questa esperienza. Ah non. Ah non. Non, alors là. Hein? Cioè, là, c'est la situation. Non, ben. Mais moi je pense que je comprends ce que tu as dit. Par exemple, je te dirais d'une autre façon, à l'ensemble, on peut, en révolutionnaire, peut penser que la vérité c'est révolutionnaire. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on croit qu'il y a une inadéquation, quelque chose qui n'est pas adéquat entre la représentation du monde, au niveau conscient, et ce qu'une certaine réalité de ce monde montre. Pouvoir les montrer, les dire, c'est faire de l'adéquation entre le projet et une certaine réalité que ce projet présente. Bon, mais à mon avis, la difficulté, est-ce que à mon avis, la difficulté vient de continuer à travailler avec une idée dualiste entre la représentation et la chose représentée. Par exemple, tu dis, tu as tendance à dire toujours, mais ce qu'on pense, ce qu'on dit, les discours et la réalité. Cette dissociation, c'est à l'origine fausse. Parce que la représentation de la chose et la chose représentée sont la même chose au niveau de la signification. Au niveau de la signification. Mais ça ne veut pas dire que, dans un moment donné, una conscience dans une situation réelle, il y a une désadéquation, non-adéquation, entre ce qu'on dit habituellement des discours sociaux et notre discours qui commence à apparaître. Non, mais c'est là où il apparaît la projection, parce que moi je peux le dire avec un autre exemple. Si quelqu'un me dit, le centre de la Terre, c'est un noyau de marmelade. Je peux penser deux choses. Ou bien qu'il se trompe et essayer de montrer que les choses sont différentes, ou me situer d'un point de vue de dire, mais pourquoi lui dit ça. Mais ça, c'est un moment intéressant dans l'histoire, dans le moment où on peut s'apercevoir cette différence. Et là, on commence à connaître quelque chose sur la réalité. Mais si quelqu'un dit, l'exemple de la Terre, c'est une matière lourde, tout le monde ne pense pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est une projection. Non, c'est la réalité. Mais cette réalité, c'est aussi significatif que l'autre. Il contient aussi des éléments significatifs dans l'autre sens. Mais il y a une adéquation. Mais cette adéquation, en fonction de l'évolution des sciences physiques, de la connaissance de la nature, et c'est une autre dimension. Cette connaissance de la nature donne un certain besoin de comprendre quelque chose en fonction d'une représentation qui, dans un sens, est univoque. Je ne sais pas si je m'explique clairement, mais là, cette dimension où j'ai fait intervenir l'aliénation, une conception du monde qui n'est pas adéquate, mais pas parce que les idées de base, l'imaginaire de base, n'est pas le même, mais parce qu'il y a une déconnexion à un moment donné entre un discours de la réalité et un autre sous-jacent. Non? Attends, il faut qu'elle traduise. Il faut qu'elle traduise. Avete capito o avete capito? Non, c'est certainement pas tout le monde, non? Allora, appunto lui dice, per esempio, un rivoluzionario dice la realtà è rivoluzionaria. La verità. La verità è rivoluzionaria. E questo è il fatto di inadeguatezza, diciamo, tra la rappresentazione del mondo a livello del discorso cosciente, sì, e la realtà del mondo che esiste. Quindi il progetto, la differenza tra il progetto e la realtà che questo progetto presenta. Per lui è difficile. Appunto, la difficoltà deriva dal fatto di continuare a lavorare su un'idea duale, ossia della rappresentazione in opposizione alla cosa rappresentata. Infatti tu dicevi che quello che si pensa è la realtà, ma per lui questo non è vero, perlomeno perché la differenza tra la rappresentazione e la cosa rappresentata praticamente non esiste a livello di significazione. E ciò non significa che appunto esiste una coscienza di non adeguamento tra il discorso sociale e il nostro discorso, appunto quello che facciamo noi. Se per esempio uno gli dice che il centro del mondo è un nucleo di marmellata della terra, sì. Sì. Ci sono due ipotesi: o cercare di dimostrargli che non è vero, oppure chiedersi il perché questo tizio definisce così il nucleo. E l'importante è appunto cercare di percepire la differenza che c'è appunto nella sua visione. Se però invece dice che il centro della Terra in realtà è costituito da materia pesante, da materiale, che veramente questa è la realtà, per cui non ci si pone problemi. E quindi se la realtà, se che tutto il mondo tu non così è lui, nessun problema. No, sì, quando viene dato come scontato, tutti pretendono appunto di saperlo. Ma e quindi questo è in realtà una significazione perché ci si è adeguati a questa determinata realtà. E quindi la conoscenza della natura ha permesso appunto di adeguarsi in questo modo. E qui interviene una dimensione che lui definisce dell'alienazione, ossia una concezione del mondo che non si adegua, quindi che non è adeguata tra il discorso della realtà e l'altro discorso, il discorso sociale. L'altro discorso, cioè dire che là è un discorso. che una connessance che è perduta nella connessance. Questo per dire ça. Sì, una conoscenza che si perde nella conoscenza. Oui, la pas l'adéquation, disons, la non-adéquation. Okay, je cambio esempio, lasciamo perdere la pillola, perché è stato un esempio infelice, non mi sono spiegato bene. Però è lo stesso tipo di esempio che faccio adesso. Invece della pillola, prendiamo la rottura rivoluzionaria che tu individui alla fine del Medioevo. Tu dici, alla fine del Medioevo nasce il mondo moderno e quella è una rottura rivoluzionaria. Hai detto questa mattina che l'idea di pensare di utilizzare l'uomo sfruttandolo, no, è qualcosa di talmente artificiale e arbitrario rispetto per esempio all'idea di ammazzarlo o di... che dimostra la potenza immane dell'immaginario, giusto? Allora io ti chiedo, forse la domanda dice, ma perché è quel tipo di immaginario si è affermato? E non per esempio quell'altro che nel 1237 ci fosse anche qualcun altro che invece pensava di utilizzare gli uomini giocando, non so, facendoli giocare, non so, facendoli giocare dentro una, per esempio, di scacchi come a Marostica, un paese vicino a dove abito io, che fanno giocare gli uomini, giocano gli scacchi con degli uomini, no? E invece di per questo immaginario, no? Di passare il tempo giocando di scacchi con delle figure umane, no? Si pensa di produrre utilizzando gli uomini, sfruttandoli. Perché si è affermato quell'immaginario e non quell'altro? Perché, mi verrebbe da rispondere io, perché quell'immaginario che si è affermato, pur dimostrando l'immane potenza dell'immaginario stesso, questo immaginario ha trovato una verifica, come chiami tu, oggettiva nei fatti, cioè rispondeva a qualcosa che era oggettivamente sentito. Se no non si spiegherebbe perché si è affermato quell'immaginario e non quello e non quell'altro, un altro ancora. Perché questo? Ecco, è la stessa domanda, quindi salta fuori quando ti tiro di nuovo in ballo con i tigua. Perché noi abbiamo un immaginario a favore della pillola? Perché questo direbbe, qual è il segreto che diventi vincente rispetto a invece l'immaginario, l'idea di Paolo VI che invece è contro la pillola? Noi diciamo, abbiamo la nostra esperienza umana ci dice, esperienza umana ci dice che siamo, che ci dà tutto a favore della pillola, però non è rivoluzionariamente sufficiente perché questo immaginario vinca, sia vincente rispetto a quello di Tortiva. Hai capito quello che voglio dire? Cioè, Écoute, je vais essayer de commenter ce que je crois avoir compris et répondre, et si j'ai pas compris, tu reprends la parole. Allora cercherò di commentare su quello che ho capito, se non ho capito riprendi la parola e rispiega. Ah, parce que je crois, excuse-moi, mais je crois que tu mélanges les choses. Credo che tu confondi le cose. Quand tu dis l'immaginaire de la domination. Quando dici l'immaginario della dominazione. Si c'est celui-là qui a prévalu et pas un autre. Se è quello che ha prevalso rispetto a un altro. Ça correspondait à quelque chose d'objectif. Correspondeva perché corrispondeva a qualcosa di obiettivo. Obiettivo tra virgolette. Oui. Mais moi je ne vois pas quelque chose d'objectif ça correspondait. Non vede a che cosa di obiettivo corrispondeva. Ça a créé une réalité qui correspondait à cet imaginaire. Ha creato una realtà che corrispondeva a questo immaginario. Jusqu'alors les hommes avaient des armes pour se tuer les uns les autres. Fino allora gli uomini avevano le armi per uccidersi. C'est pas parce qu'il leur manquait des armes qu'il n'y avait pas de domination. Non è perché gli siano mancate le armi che non avevano la dominazione. Mais quand il y a eu la domination, qu'est-ce qu'on a fait? Ma quando c'è stata la dominazione, cosa si è fatto? Eh bien, on a évidemment enlevé les armes aux dominés, les autres ont eu les armes, on a fait un corps spécial avec des armes. Si sono tolte le armi ai dominati. Et on les a utilisées pour réaliser cet imaginaire de la domination. Et si sono usate per poter realizzare questo immaginario della dominazione. C'est-à-dire cette signification imaginaire a utilisé des possibilités qui étaient là. Cioè questa significazione immaginaria ha utilizzato le possibilità che esistevano effettivamente. Ou a créé de nouvelles inventions et d'autres utilisations. Ha usato o ne ha verificate altri usi, altre invenzioni. Qui lui ont permis effectivement de se réaliser. Gli hanno permesso di realizzarsi. Alors, il n'y a pas quelque chose d'objectif qui correspond à cette création d'avance. Nulla di obiettivo che corrisponda a questa creazione prima. Sauf dans un sens logique formel. Sinon, in un senso logico formale. Qui n'a aucun intérêt. Che non è importante. C'est-à-dire que dans la structure du monde physique et biologique, cioè nella struttura del mondo fisico e biologico, une société de domination est possible. Una società di dominazione è possibile. Le goulag est possible. Il goulag è possibile. La démocratie athénienne est possible. La démocratie athénienne. Bon, mais ça ne nous apprend rien. Questo non ci insegna niente. Mais le problème que tu posais à propos de la pilule. Il problema che ponevi a proposito della pillola. Est de notre ordre. È diverso. C'est-à-dire au nom de quoi? Cioè a nome di che cosa? Nous disons contre Wojtyla ou contre l'Église. Diciamo contro Wojtyła o contro la Chiesa. Que vous avez tort, si tu veux. Che hanno torto. Ou au nom de quoi nous on est pour la pilule? O a nome di che cosa noi siamo pro pillola? Mais là il y a évidemment. Qui c'è naturalmente un choix de valeur, una scelta di valori qui ne correspond à aucune objectivité, che non corrisponde a nessun obiettivo, a aucune objectivité. Ça ne veut rien dire. Ciò non vuol dire niente. Moi je suis pour la pilule en vertu du principe d'autonomie. Sono in pro pillola in virtù del principio di autonomia. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une femme est une femme. Cioè, significa che perché una donna è una donna, qu'elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut de son corps, che appunto sia sufficiente per poterle permettere di fare quello che vuole del suo corpo, et qu'elle n'a pas le droit de faire l'amour sans avoir à penser que peut-être j'aurai un enfant que peut-être je ne veux pas. Quindi di poter fare l'amore senza pensare che potrà avere un figlio. Il faut qu'une femme puisse décider je veux ou je ne veux pas un enfant. Occorre che una donna decida se vuole o meno. Donc je suis pour la pilule. Quindi sono pro pillola. Et je dis que Wojtyla et l'Église, et dico che Wojtyła e la Chiesa, quand ils sont contre la pilule, quando sono contro la pillola, traduisent des valeurs d'hétéronomie, traducono valori di eteronomia, comme plus généralement toute la religion et la morale religieuse, così come tutta la religione e la morale religiosa, est une morale de l'hétéronomie. È una morale dell'eteronomia. C'est-à-dire, vous ferez ça parce que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Lo farete perché Dio l'ha voluto. Et non pas parce que vous, vous le voulez comme ça après avoir réfléchi. E non perché lo avete voluto voi dopo aver riflettuto. Alors, bon, l'autre problème, je ne sais pas, ça devient un peu compliqué. La vérité révolutionnaire, c'est vrai, c'est pas vrai. La vérité révolutionnaire est vera ou non vera, questo è l'altro problema. Je dirais que dans une société où il y a l'aliénation et la mystification, in una società in cui esiste la mistificazione e l'alienazione, la vérité est subversive. La realtà, la verità, vérité. La vérité. La vérité est sovversiva. Est subversive. C'est-à-dire, elle démolit, cioè, la mystification du système. La mystification del système. Mais la vérité en ce sens. Ma la verità in questo senso. Elle n'est pas pleinement révolutionnaire. Non è pienamente rivoluzionario. Parce que le projet révolutionnaire ne consiste pas seulement à dire. Perché il progetto rivoluzionario non è. Le discours de Wojtyla est mystificateur, le discours de Craxi est mystificateur, le discours de Mitterrand est mystificateur, et voilà pourquoi ils sont mystificateurs. Che i discorsi di Craxi, di Mitterrand e di Wojtyła sono mystificatori, cioè non basta. Le projet révolutionnaire consiste aussi à dire. Nous voulons une société autonome, et ça c'est au-delà de la vérité et de la non-vérité. Ça c'est un choix fondamental qui peut être élucidé, mais qui ne peut pas être argumenté de façon géométrique. Ma non può essere argomentato in modo geometrico. Bon. À mon avis, il y a deux niveaux différents. J'insiste parce que je crois qu'il faut le comprendre. C'est deux niveaux différents. L'une, c'est le suivant. Par exemple, si on dit, c'est une société hiérarchique, il y a deux riches très pauvres, des dominants et des exploités. Dominants et dominés, si vous voulez, les exploités, les exploités. Si on dit ça, on dit c'est bien comme ça, c'est un jugement de valeur. Si on dit c'est mal comme ça, il faut changer, c'est un jugement de valeur. Mais il y a un discours, qui est le discours de la réalité politique, qui te dit la hiérarchie, ça n'existe pas. La domination, ça n'existe pas. C'est un monde démocratique tous les gens peuvent voter, et comme ils votent, ils résolvent la situation comme ils veulent. Ce discours cache la réalité de la domination. Bien entendu. Bon, c'est à ce moment-là, vous dites non, c'est pas vrai, pour ça, pour ça, pour ça, qu'on peut dire qu'il y a une autre adéquation entre ce premier discours bien sûr. Et cette réalité. C'est à ce niveau-là. La... Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Deve tradurre. Oui, allora, secondo lui ci sono due livelli diversi. Dice, se si dice per esempio che la società è gerarchica, quindi esiste un dominante e un dominato, si può anche dire, si dice dopo occorre cambiarla, occorre organizzarsi per cambiarla. E il discorso della realtà politica è la gerarchia non esiste perché è un mondo democratico per cui le persone possono votare, per cui possono cambiare. Questo tipo di discorso nasconde quella che è la realtà dei dominanti. Quindi esiste un altro tipo di adeguazione tra la realtà e il discorso appunto che c'è. Voulais... Hein? È altrettanto vero che nel momento in cui dici la democrazia è una maniera di nascondere la realtà della gerarchia, per cui della riposizione tra dominato e dominato, per dire questo fai riferimento a un sistema di valori che non è dimostrato, cioè per la persona qui va benissimo la società democratica che non si sente, diciamo così, alienata, non si sente sottomessa e dominata, il vivere la società democratica, la società libera è vero, è un aspetto della realtà. No. Perché no? Chi è contento e di fatto chi non partecipe effettivamente alla democrazia, per quanto di fatto, no, perché c'è un di fatto. Un di fatto che fa riferimento a un a priori. No, no, cioè, di fatto, cioè nelle cose, nel comportamento sociale, di fatto non partecipi realmente alla gestione cioè, della cioè, non puoi eliminare questo. Cioè qua stiamo confondendo noi due piani fondamentali, ci sta una grossa confusione. Da un lato, quando noi diciamo che i fatti sociali sono creati da come tu li interpreti, non da quello che tu pensi di essere. Questo pensare deve essere inteso in senso latissimo, cioè pensare in senso, faccio riferimento ai termini della teoria della cultura, della teoria del linguaggio. Non significa quel pensare, un pensare in senso stretto, in senso ideologico. Faccio un esempio. Ad esempio, quello della democrazia. Il fatto che ci sia che la gente pensi un regime diciamo democratico che di fatto no? Quel regime ti consente di esprimere veramente la tua possibilità di gestire insieme agli altri la società, questa è una ideologia, cioè è mistificante, cioè, tutti lo pensano, ma resta il fatto che sia mistificante, perché il fatto sociale, no? Che è altra cosa, cioè il fatto, i fatti sociali, le istituzioni sociali sono diverse. Cioè nei fatti sociali, questi non corrispondono alla tua ideologia, al tuo modo di vederli. Resta il fatto che questi fatti sociali non sono delle cose, ma si compongono di simboli, di cultura, di modi di pensare, ma in senso lato. Quindi ci sono due livelli di come tu vedi le cose. C'è un livello che è il fatto sociale, che chiaramente non è un fatto brutto, ma è un fatto culturale. E poi sopra di questo c'è il livello ideologico superiore, che è il livello di come tu interpreti quei fatti, che può essere mistificante o meno. In genere è mistificante nella società del mondo, che copre la realtà, che è una realtà pure fatta in pensiero. Quindi non bisogna dire, cioè c'è il rischio di se non capiamo bene i due livelli, di confonderli. E così di eliminare qualunque realtà sociale. La realtà sociale c'è. E la puoi vedere, non è soltanto quello che pensi. È come dire che uno schiavo, tipo proprio schiavo degli egiziani, eccetera, che abbia interiorizzato il dolore di schiavo, si identifichi nella figura, eccetera, dell'essere schiavo, però non è schiavo. No, lui è schiavo di là della sua interiorizzazione. Così il discorso dell'oppresso attraverso la democrazia, anche se lui si riconosce certo di essere oppresso, non vuol dire che non sia oppresso, l'oppressione esiste. Sì, certo, ma il problema non è mica questo. Io non metto mica in discussione che non sia vero questo fatto qui. Dico semplicemente che il riscontro oggettivo è dato da, una, da un ventaglio di possibilità. Prima, quando Aristoteles diceva sappiamo che la democrazia ateniese può funzionare, sappiamo che può funzionare pure. Questo qui però non ci dice più di tanto, cioè ci dice che è, esiste un ventaglio altissimo di possibilità e sin qui va tutto bene. Il ragionamento che voglio fare io, cioè non è un ragionamento, semplicemente un appunto che lascerà rispetto al discorso di Conte, è questo. Se tu devi avere, in base al discorso di Nico, diciamo che devi avere un riscontro oggettivo, insuperabile, una cosa, diciamo, il qui, che ti dice tu hai più ragione di lui. Allora, questo riscontro oggettivo assoluto, da che cosa è dato? Perché anche quando tu dici lo schiavo è schiavo, va benissimo, lo zio Tom, il negro americano, era schiavo, lo sapeva benissimo. A lui andava bene così, lo zio Tomismo dei negri americani. In sostanza cos'è? Chiaro, sono uno schiavo, però mi va bene così. Ora il discorso oggettivo qual è? Remigio, che lui ti negava quella condizione, ti diceva questa condizione a me va bene. Allora il discorso di ribaltamento su che cosa faceva lei? Su dire no, non ti deve andare bene se lui andava bene. No, scusa, non mezzo. Questo è il discorso che ti faccio io, cioè quando tu dici che esiste una gerarchia, questa gerarchia oppressiva, non è che dici una cosa che non è vera, è verissimo per te. E per chi ti dice che questa gerarchia esiste, ma per me non è oppressiva, come lo risolvi? Non lo puoi risolvere. Allora, momento, che stai a dire? Esiste un discorso. Pour toi, la gérarchie est oppressive. Pour l'autre, le conformiste, disons, il n'est pas oppressive. Alors voilà, c'est... il n'y a pas de... Une seconde. Bon, vas-y. Non, io voglio dire che quello che ho detto prima sulla pillola, che cioè noi diciamo che opponiamo il nostro sistema di valori a quello di capo coettivo, no? E tu dici, e io sono perfettamente d'accordo, che è sufficiente che noi diciamo che basta che la donna decida, non occorre altre dimostrazioni perché questo sia da accettare, va bene, hai capito, va bene, sono perfettamente d'accordo. Ma ti domando, allora, basta queste nostre affermazioni perché queste nostre stesse affermazioni siano vincenti rispetto a quelle di caso positivo? Sì, no. Basta questo. Ça suffit, l'affirmation de dire pour moi c'est juste que la femme soit autonome que pour imposer un autre point de vue à bon, je voulais dire, je voulais dire. Provo a riformulare in modo semplice la domanda di Nico, provo a riformulare in modo semplice. Senza esempi di pillole o di messaggi, che gli esempi a volte aiutano a comprendere, a volte confondono le idee. La domanda, secondo me, ristretta all'essenziale è questa. Un sistema di valori si afferma rispetto ad altri sistemi di valori del tutto casualmente, oppure ci sono degli elementi esterni al sistema di valori che si afferma, che giustificano il suo affermarsi sugli altri sistemi di valori? Che spiegano. Un sistema di valori si afferma casualmente o ci sono dei motivi non casuali per cui si afferma un sistema di valore rispetto ad altri sistemi di valori in un certo momento della storia umana? Non risolve quello che vuol dire lui, perché... No, perché il problema è che il sistema di valori sia oggettivo. Quello che dici tu non ha necessità di essere oggettivo, invece quello che dice lui è lo stesso discorso. Alors, il voulait savoir. Il disait, je tente de vous simplifier la question. Le système de valeurs s'applique, disons, s'impose sur un autre par cas, disons, par hasard, où il y a des éléments extérieurs à ce système de valeurs qui justifient, qui expliquent, disons, cette affirmation du système de valeurs sur un autre. Il y a des éléments objectifs. Moi, je dirais seulement deux choses. Dirò semplicemente due cose. La hiérarchie, les esclaves, etc. La gerarchia, gli schiavi, prima cosa. E deuxièmement, le système des valeurs. Il sistema dei valori. Bon. Quand nous fonctionnons comme des théoriciens, historiens. Quando abbiamo la funzione di storici o teorici. Bon. Nous constatons. Constatiamo. Qu'il y a des sociétés où il y avait des esclaves. Che ci sono società in cui esistevano gli schiavi. Il y en a encore d'ailleurs. Ce ne sono ancora. Au sens formel. Nel senso formale del termine. Bon. Les Nations Unies ont proclamé l'abolition de l'esclavage, mais on sait qu'il y a des pays africains arabes où il y a de l'esclavage au sens formel, classique. I paesi africani e asiatici esiste ancora questa schiavitù. Bon. Là, le fait de l'esclavage. Qui il fatto della schiavitù. En un sens comme tel, n'est pas un objet d'interprétation, n'est-ce pas? Non è un oggetto di interpretazione. Bon, la société elle-même considérée dit il y a des esclaves. La società considerata dice esiste. On peut acheter et vendre les êtres humains, etc. Il y a des marchés où on les vend. Ci sono dei mercati dove vendono gli schiavi. Et puis on peut observer, presque au sens du physicien. Si può osservare quasi dal punto di vista fisico. Qu'il y a des gens qui obéissent aux ordres des autres, mangent ce que les autres leur donnent à manger, etc. Bon. Ci sono persone che obbediscono agli ordini, che mangiano quello che gli danno da mangiare. Bon, ça c'est la description d'une société où il y a de l'esclavage. Questa è la descrizione di una società in cui esiste la schiavitù. Alors, ça se termine pas là, parce que bon, comprendre alors les significations imaginaires sociales qui sont là-dedans, c'est une autre chose. Capire i significati immaginari sociali che esistono all'interno. Parce qu'il y a différentes, parce qu'il y a différentes sociétés esclavagistes qui ne sont pas les mêmes, etc., etc. Mais enfin. Ci sono diverse società di tipo di schiavitù. Bon. Ces esclaves dans la société considérée. Questi schiavi nella società considerata. Supposons. Supposons. Presupponiamo. Ont intériorisé le système. Hanno interiorizzato il sistema. Ou ne s'y opposent pas. O non si oppongono. Alors là, je vais dire peut-être quelque chose qui va paraître scandaleuse. Dirò forse qualcosa che potrà sembrare scandaloso. Je crois quand même que la grande masse de l'évidence historique. Credo che la grande massa dell'evidenza storica. C'est que dans les systèmes esclavagistes proprement dit. Che nei sistemi di schiavitù propriamente detti. La lutte des esclaves contre le système d'esclavage. La lotta degli schiavi contro il sistema di schiavitù. Non pas la défense individuelle de l'esclave contre l'oppression que lui subit. Non la difesa individuale da parte dello schiavo contro l'oppressione che subisce. Mais la lutte des esclaves contre le système des esclaves. Ma la lotta degli schiavi contro il sistema di schiavitù. È rara, accidentale e plutôt l'exception. È rara, accidentale e quasi un'eccezione. Bon. C'est comme ça. Comme dit Luhmann, je crois. Hein? Il faut accepter ce qui est. Bon. C'était comme ça. Bon, alors, nous disons, noi diciamo, nous condamnons ces sociétés. Queste società. Bien entendu. Naturalmente. Les gens à l'intérieur de cette société, on suppose, même les esclaves ne le condamnent pas. Ma la gente che vivono in questa società, gli schiavi stessi non la condannano. Mais à partir de quoi nous avons pu condamner ces systèmes? Ma a partire da che cosa possiamo condannare questo sistema? Parce que précisément nous appartenons à des sociétés. Perché apparteniamo a società. Et à une tradition sociale et historique. A una tradizione sociale e storica. Où la domination, l'oppression, l'exploitation. Dove la dominazione, lo sfruttamento, l'oppressione. Ont été contestées de l'intérieur. Sono state contestate dall'interno. Par les dominés, les exploités, etc. Dai dominati, dagli sfruttati. Bon. C'est-à-dire qu'il y a eu création historique. Cioè c'è stata una creazione storica de notre système de valeurs. Del nostro sistema di valori. Qui dit il n'est pas vrai qu'il faut obéir à son maître parce que c'est ça che Dio ordonne. Che dice che non è vero che bisogna obbedire al padrone perché Dio lo comanda. Paul, Epître aux Romains, chapitre 7, je crois. Paolo, Lettera agli Romani, capitolo 7. Bon. Et que nous avons dit, nous emmerdons Dieu, même s'il a dit ça. Et nous abbiamo detto, noi, nous avons. Nous emmerdons Dieu. Bon. Et que, bon, nous sommes contre la domination, etc. Siamo contro il dominio, eccetera. Alors, le problème. Il problema. Pratique. Pratico. De qu'est-ce qu'on fait quand on est porteur de cette autre signification imaginaire sociale? Quello che si fa di quando si porta, si portatori di questa altra significata. De cet autre système de valeur. Questi altri sistemi di valori. Et que soit on a à faire face à une société où les esclaves acceptent l'esclavage. Che si deve far faccia, far fronte, per esempio, a una società in cui gli schiavi accettano la condizione. Ce qui peut paraître un problème théorique, mais ne l'est pas. Può sembrare un problema teorico, ma non lo è. Parce que, par exemple, c'est le problème d'une bonne partie du peuple allemand sous le nazisme. Perché è il problema di una buona parte del popolo tedesco sotto il nazismo. Et c'est peut-être, je n'en sais rien, c'est le, peut-être le problème du peuple russe maintenant avec le régime, pour une partie au moins. È forse la parzialmente il problema del popolo russo sotto. Mais sans aller jusque-là. Ma senza arrivare fino a qua. Ici, en Italie, en France, en Angleterre, aux États-Unis. In Italia, in Francia, in Inghilterra. Qu'est-ce qu'on fait avec un système dont nous nous sommes convaincus qu'il comporte une hiérarchie? Che cosa facciamo con un sistema che comporta una gerarchia secondo noi? Une domination, une exploitation. Una dominazione, uno sfruttamento. Et qui de toute évidence. E che chiaramente. Est suffisamment intériorisé par un très grand nombre de gens. È interiorizzato da un gran numero di persone. Sans quoi, tout simplement, il n'existerait pas. Senza il quale loro non li sarebbero tombé comme ça. Cadrebbero, crollerebbero. Alors, ça, c'est le problème, je crois, concret de l'activité politique. E questo è il problema che si crea dell'attività politica. Je veux dire que ça n'a rien à faire en soi avec le système des valeurs. Non ha nulla a che vedere con il sistema di valori. Je veux dire par là encore que nous nous considérons comme les continuateurs ou ce que vous voudrez, les renovateurs ou peu importe. Bon, de cette création historique avec les valeurs historiques de l'autonomie sociale individuelle. Ci consideriamo i continuatori di questa realtà sociale, dei valori, dei autonomi, que nous vivons dans une société dont une grande partie accepte. Che viviamo in una società nella cui gran parte accetta une structure d'hétéronomie. Questa struttura di eteronomia. Et alors à partir de ça, bon, il y a plusieurs questions qui se posent. A partire da questo ci sono più problemi che si pongono. Peut-être elle accepte simplement parce qu'elle est mystifiée. Si accetta forse perché è mistificata. Bon, et à ce point de vue, la vérité est subversive. Allora da questo punto di vista la verità è sovversiva. C'est-à-dire que les gens, à un niveau relativement superficiel, je veux dire idéologique, cioè le persone a livello ideologico, superficiale, croient que effectivement la démocratie, enfin les régimes libéraux tels qu'ils existent, expriment la domination du peuple. Esprimono la dominazione del popolo. C'est-à-dire n'ont pas compris vraiment l'aliénation qu'il y a dans les structures politiques. Non hanno compreso l'aliénazione che esiste nelle strutture politiche. Bon, là. Mais moi je crois pas que c'est seulement cela. Ma non credo sia solo questo. Ou bien parce que à un niveau un peu moins superficiel idéologiquement. Forse a un livello un po' meno superficiale a livello ideologico. Ils acceptent d'autres discours rationalisateurs de l'ordre existant. Accettano altri discorsi dell'ordine esistente. Et il y a un discours qui est le moins mauvais que l'ordre existant peut donner, qu'il faut connaître, qu'on connaît d'ailleurs. C'è un discorso che forse è meno peggiore dei vari discorsi che si conoscono. Que bien entendu, c'est pas un système parfait. Che non è un sistema perfetto. Mais c'est le système le moins mauvais qu'on peut avoir. Ma è quello meno peggio che si può avere. Et ça, je crois que pour beaucoup de gens, c'est à ce niveau-là que se place la justification du système. Credo che la giustificazione per molte persone sia proprio questa, di questo sistema. Bon, ça aussi, ça peut être argumenté à un point de vue. Anche questo può essere discusso. Mais là, on arrive à quelque chose qui devient plus difficile. Ma ciò diventa più difficile. C'est-à-dire que à partir du moment où le système actuel est défendu au niveau relatif, à partir du moment où le système viene difeso a livello relativo, pour nous, est posé, pour ainsi dire, par l'interlocuteur, l'exigence, per noi è posto dall'interlocutore, dall'esigenza, de montrer que, disons, notre projet est possible et réalisable. Dimostrare che il nostro progetto è possibile e realizzabile. Ce que évidemment nous ne pouvons pas démontrer. Et ciò non si può dimostrare. Nous pouvons tout au plus démontrer que ce n'est pas impossible. Possiamo perlomeno dimostrare che non è impossibile. Et puis il y a en troisième lieu, je crois, un autre niveau qui est beaucoup plus profond, qui est le niveau fondamental. Et un altro livello più profondo, fondamentale. Moi je pense que le véritable fondement de l'ordre social de la domination et de l'hétéronomie. Credo che il vero e proprio fondamento dell'ordine sociale dell'eteronomia. Quand on pense aux êtres humains concrets. Quando si pensa agli esseri umani concreti. C'est pas les discours, c'est pas la répression, bien sûr. Non è certo la repressione. Et c'est pas les discours idéologiques. E neanche i discorsi ideologici. Je crois que c'est du même ordre que la religion. È lo stesso ordine della religione. C'est-à-dire l'incapacité. E cioè l'incapacità. Disons l'énorme difficulté pour les êtres humains. L'enorme difficoltà per gli esseri viventi. D'accepter. Di accettare. Qu'il n'y a pas en dehors d'eux-mêmes che non ci sia al di fuori di loro de garant de l'ordre, de la loi, etc. Et de la signification. Un garante della legge, dell'ordine e della significazione. Si vous voulez, l'énorme difficulté pour les êtres humains, se volete la grande difficoltà per gli esseri umani, de regarder avec des yeux ouverts ce fait. Di guardare con occhi aperti questo fatto. Qu'ils peuvent faire eux-mêmes la société. Che possono fare loro la società. Qu'ils peuvent être responsables de leur vie, qu'ils doivent être responsables de leur vie. Che possono e devono essere responsabili della loro vita. Sans dire c'est décidé par Dieu. Senza dire è deciso da Dio. Ni même sans dire c'est décidé par l'État ou par ces salauds des capitalistes. O dallo Stato o dai capitalisti. C'est-à-dire, c'est cette cette inertie à laquelle retombe l'être humain. C'est un élément in cui ricade l'essere umano. Parce qu'il a besoin de systèmes de signification établis, de normes et des valeurs établies, et de savoir où est l'autorité et quelle est la place de chacun. Perché ha bisogno di leggi, ordini già stabiliti, di significazioni già stabiliti, dove poter fare riferimento l'autorità che comanda, insomma. Et où est la place de chacun? E dov'è il posto di ognuno? Et je crois que ça, c'est, ça fait, ça, ça, nous touchons là un problème très profond. Un problema profondo. Et je crois que on voit la lutte entre cet élément et l'autre élément dans toute l'histoire moderne en particulier. Si vede questa opposizione in tutta la storia moderna. C'est-à-dire les moments où les sociétés modernes sont entrées dans cette sorte d'effervescence créative révolutionnaire. Où les sociétés qui sont entrées à point. Elles ont essayé effectivement de se prendre en main ou elles ont coupé la tête au roi et à l'Église aussi, etc., etc. Pour prendre le cas le plus extrême. Qui ont tagliato la testa al re o alla chiesa appunto per. Et puis les moments de retomber dans l'inertie. E con appunto il momento in cui sono ricaduti nell'inerzia. Qui ne dépendent pas du fait que, je ne sais pas moi, la réaction a eu plus d'archibuse. Che non dipende appunto dal fatto che la reazione abbia avuto più archibugi. Mais du fait que il y a une espèce d'effroi. Ma che esiste una specie di d'effroi, di effroi, paura. De, oui, plus que ça. Enfin. C'est du terrore. Devant le, l'abîme de la liberté enfin, et de la responsabilité pour sa vie. De la liberté et de la responsabilité de la propre vie. Et cet effroi devant l'abîme, c'est ce qui aussi est à la racine de la religion, n'est-ce pas, ça nous le savons. Et ciò è anche la base della religione stessa. Vorrei fare delle domande originarie sul dibattito che abbiamo avuto. Deux questions sur le débat en général. Nella storia dell'uomo, nelle sue origini, storicamente a noi giunti, abbiamo una conoscenza di un uomo che vive nella sua autonomia sociale, oppure già nelle sue origini che noi conosciamo oggi si evidenziava un immaginario sociale di un uomo all'interno dei vari popoli con un immaginario sociale autoritario e di un uomo con un immaginario sociale anche autoritario e di un uomo scusa con un immaginario sociale anche autoritario primo secondo se nelle sue origini non esisteva questa diversità di immaginario sociale, si è formato successivamente. Perché si è formato successivamente l'immaginario sociale autoritario nell'uomo, tra i popoli? E perché invece non si è costruito un immaginario sociale anti-autoritario? Che già, già probabilmente preesisteva. Je crois que c'est les deux questions, c'est en fait c'est la même. Hein? La stessa domanda. Je crois que les deux sont. Et successives. Oui. Et je commencerai par la deuxième. Comincerò con la seconda. Moi, je ne crois pas que ce qui était au départ, c'était un imaginaire, enfin, ou une, oui, un imaginaire social anti-autoritaire. Non credo che all'origine ci fosse un immaginario sociale anti-autoritario. Là, c'est un peu la discussion à propos de, du livre de Clastres. È un po' la discussione a proposito del libro di Clastres. Alors, en prenant littéralement ce que dit Clastres et la façon dont il décrit les choses chez les Guyaki. Prendendo letteralmente quello che dice Clastres nel modo anche come lui le descrive. Il y a effectivement un imaginaire anti-autoritaire. Esiste un immaginario anti-autoritario. Au sens que toute l'institution de la tribu. Nel senso che tutta la la istituzione della tribù esclude que quelqu'un puisse avoir un pouvoir. Che qualcuno possa avere un potere. Bon, dans la mesure où il y a un pouvoir, nella misura in cui esiste questo potere, il appartient à la collectivité. Appartiene alla collettività. Bon. Et comme je le disais moi-même ce matin, come ho detto già stamattina, ça c'est une société où il n'y a pas l'imaginaire de la domination. È una società in cui non esiste l'immaginario della dominazione gli uni sugli altri. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une société hétéronome. Ciò non significa che non è una società eteronoma. Parce que dans la société de Clastres, enfin cette société sauvage, perché nella società di Clastres, la società selvaggia, il est impensable que quelqu'un puisse dire. È impensabile che qualcuno possa dire. Nos lois sont mauvaises. Le nostre leggi sono cattive, non sono giuste. Il est impossible de mettre en question l'institution existante. È impossibile mettere in questione l'istituzione esistente. Bon, c'est pour ça que je crois hier soir je me suis référé à 1984 d'une autre façon, n'est-ce pas? Mi sono riferito ieri sera a 1984 in un altro modo. C'est-à-dire que pour les gens dans cette société, per le persone di questa società, la pensée notre loi est mauvaise ne peut même pas être pensée. Il pensiero, questa legge, la nostra legge è cattiva, non è giusta, non può neanche essere pensata. Bon, alors on a donc au départ un imaginaire qui est contre la domination, enfin pas contre la domination, il ne faut pas présenter la chose comme ça, qui ne comporte pas la domination. C'è quindi un immaginario che non comporta, che non è strettamente anti-autoritario, ma che non comporta la dominazione. Mais qui est un imaginaire de l'hétéronomie. Ma che è sempre un immaginario dell'eteronomia. C'est-à-dire que les institutions que la collectivité a posées, cioè le istituzioni che la collettività ha posto, ne peuvent pas être mises en question, non possono essere messe in questione, et pour qu'elles ne puissent pas être mises en question, e affinché queste non vengano messe in questione, il faut aussi qu'il y a une institution spécifique, si je peux dire, occorre che ci sia un'istituzione specifica per dire, ou une clause instituée, una clausola istituita, qui accompagne toutes les institutions, che accompagna tutte le istituzioni, disant, che dice, attention, attenzione, ce n'est pas nous qui avons fait ces lois.